Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti. Voglio subito farvi sentire una cosa. Volevo attaccare la sigla, invece ve lo faccio sentire così. Chris Bosh, inside position for Bargnani, instead turnover. And out of bounds, off Calderon. A fan. Way to go, that's called home court advantage. Helping out on the sideline. And I like what Bargnani did too. He held his hand and said no problem. Grasse risate, no, grasse risate per il colpo di mano di Lapo Lupin che ha sfilato forse la vittoria ai Raptors sul campo dei Lakers. Ma non sapeva le regole, l'ha detto. Altro che Jack Nicholson, caro Flavio Suardi. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti. Buon pomeriggio coach, Dan Peterson. Ciao ragazzi, ciao amici sportivi di Radio 24, come andiamo? Non c'è male, con Lapo ci siamo fatti grasse risate anche noi. E poi oggi abbiamo un ospite che abbiamo aspettato per una settimana qui giù fuori dalla porta, ed è Marco Trepaldi, presidente di Biella, che doveva venire una settimana fa, e svegliamo anche questo. Poi è successo. Trepaldi è sempre latitante. Okay? No, non è latitante. Sai cosa? Gli è successo l'incubo di ogni presidente al venerdì, cioè si fa male l'americano, Guillermo Diaz. Ciao Marco, grazie. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno coach. No, non è che sono latitante, è che quest'anno devo correre dietro agli infortunati, diventa veramente complicato. Va bene, ciao Marco. Ciao, ciao coach. Ciao, ciao. Coach, ma tu hai mai visto una cosa come quella che ha fatto Lapo Elkan su un campo di pallacanestro, non solo NBA, su un campo di basket in generale? No. Mai nella mia vita ho visto un tifoso o un spettatore, diciamo, toccare un pallone nella pallacanestro a livello scolastico, a livello universitario, a livello professionistico. L'unica volta che ho visto un spettatore interferire con un gioco così, proprio a Chicago, la mia città, penso nel 2003, c'era una palla colpita da un giocatore dell'altra squadra in alto e cadeva proprio verso la prima fila della tribuna sul lato di terza base. Il nostro difensore di Chicago, se riesce a prendere questa palla in volo, elimina il battitore dell'altra squadra e vinciamo la partita e andiamo alla Serie Mondiale. Un tifoso, cioè nel raptus agonistico, con il guanto addosso, alza la mano, interferisce con la palla. E i tifosi di Chicago gridavano, perché è costato loro la partita, il titolo, è detto kill him, uccidetelo, ok? C'è proprio, e quindi è una cosa mal vista negli Stati Uniti, a dir poco. Cioè noi ovviamente prendiamo la lato umoristico della cosa, però credo che l'NBA adesso nei loro uffici stanno dicendo dobbiamo far vedere che questo non succederà mai più. Ah certo, Calderon invece l'ha preso un po' meno sul ridere, immagino che fosse stato un altro e non lo spagnolo Calderon, ma insomma, un qualunque altro giocatore dell'NBA di quelli cattivi. Marco, confessa che alla Lapo Elkan un pensierino l'hai fatto con tutti gli infortunati che avete avuto? Sì, no? No, magari come sponsor sarebbe più interessante, male. Come giocatore direi che ha fatto il suo, ha dato il suo per la pallacanestro, direi che si può fermare lì. 800 24 00 24, numero verde per intervenire, messaggi 349 238 6666. E io quando ieri sera ho visto i risultati dell'Eurolega sono caduto dalla sedia, perché non mi aspettavo una squadra di Ettore Messina capace di buttare via una Final Four di Eurolega già scritta. Hanno perso in casa con il Maccabi Tel Aviv di 2 punti, 66-64, e il mio personale coach of the year è Pini Gershon. Non so come la pensa coach Peterson. Assolutamente. E poi tu pensi un secondo, con questa sconfitta del Real vanno a 3 vittorie 3 sconfitte, esattamente come Siena. Quindi in questi casi qui chi va a fare le quarti finali, purtroppo con Barcellona, e Real Madrid per 1 punto, perché consciente canestri hanno vinto, Siena ha vinto a casa di 7 punti, persa a Madrid di 3 punti con un canestro degli Ur all'ultimissimo secondo di gioco. Quindi amaro ancora più terribile per Siena, che per 1 punto viene eliminato proprio dalle quarti finali Eurolega, pure con Barcellona. Incubo per Ettore Messina, che ha fatto 3 partite con Barcellona, ha perso più di 20 punti ogni volta, già anche 30 se non sbaglio, quindi lui è già sotto molta pressione in Spagna, e dover fare altre 3 partite minimo contro Barcellona è un incubo. Coach, però mi pare di capire che questo accoppiamento che poi ci fa vedere Maccabi Partizan ci fa ben sperare per il Partizan, che è una squadra che a noi sta sempre molto simpatica visto la sua politica, e quindi potrebbe esserci occasione proprio per questa squadra di andare alle finali. Well, ovviamente il favorito rimane Maccabi Tel Aviv, perché due partite Tel Aviv, due partite a Partizan a Belgrado e poi la bella, se necessario, la quinta a Tel Aviv, ovviamente. Quindi sulla carta rimane favorita Maccabi Tel Aviv, che è una squadra in grande ascesa. Carlo ha citato proprio Pini Gerson, allenatore dell'anno, assolutamente non ci sono dubbi su questo, okay? Cioè, proprio non c'è neanche concorrenza, non mi viene neanche in mente un altro allenatore da citare insieme a lui. E quindi ha rovesciato la partita. Tu pensi che ha fatto la sua squadra quarto tempo, quarto periodo contro Siena, 43 punti. Ieri a Madrid, quarto, 30 punti. Quindi due grandissime imprese, due grandissime vittorie per lui, e la squadra sta volando adesso. Okay? Cosa ne pensi di questo Maccabi, Marco? Beh, è la sorpresa, direi, nel senso che non era partito sicuramente con le ambizioni che poi l'hanno portato ai quarti, dov'è, e con la possibilità di andare alle Final Four. Te lo dicevo prima, l'abbiamo visto, sono venuti a giocare a Biella in amichevole il 30 di dicembre, vinsero di 45, e a me fecero una grandissima impressione, però sai, un amichevole, lo stesso Pini Gerson diceva, ma siamo più una squadra che va bene così, senza pressione, poi quando conterà probabilmente i limiti verranno fuori. In realtà no. A questo momento direi che anziché i limiti sono venuti fuori i pregi di questa squadra. Possiamo dire che c'è un giocatore di questo Maccabi che stavi per portare a Biella? O svelo un segreto? No, sveli un segreto, l'abbiamo seguito per tutta l'estate. La guardi, adesso sai che mi sfugge il nome. Doron Perkins. Sì, bravo lui. Lui ha giocato l'anno scorso, grandissima energia, giocatore sul quale forse ci potevano essere perplessità sulle scelte, no? Perché è un po' playmaker, un po' guardia. Però, ripeto, la sua storia dice dovunque sia andato, preso squadre piccole, ha fatto grandi risultati, sempre primo nei rimbalzi, nelle palle recuperate, un giocatore utile alla squadra, di scelte forse un po' discutibili, ma in una grande squadra come il Maccabi poi magari l'ultima palla c'è qualcun altro che la gioca e lui intanto ti dà una mano a spaccare le partite. Molto interessante. Ma lui ha fatto rovesciato la partita contro Siena, è stato lui, perché sì, proprio sì. Difese recuperate, altre cose, iniziative, cioè è stato lui, non dico l'MVP della partita, ma veramente l'ago della bilancia, quello che ha rovesciato la partita a favore di Maccabi. Così, chiedo ancora questo prima di salutarti, ma il derby spagnolo, allora, sabato scorso parlavo con Riccardo Pettis e si diceva, ma se il Real va alle Final Four, attenzione a Ettore Messina, perché in una partita secca, in quel clima, in quell'ambiente, può anche inventarsi qualcosa di decisivo. Adesso invece si trova di fronte una serie con la più forte squadra d'Europa, cioè con il Barcellona, zero chance per Ettore Messina. Lo dicono tutti, zero chance. Io dico che finirà, non so, 3-1 per Barcellona, non so, Maccabi, Real Madrid riesce a strappare una vittoria, ma la storia dice che quest'anno sia a Barcellona che a Madrid che in campo neutro nella Coppa del Re, Real è stato spazzato via violentemente da Barcellona, cioè proprio asfaltati, dominati, ridicolizzati, e in Messina addirittura è stato veramente messo in difficoltà. Dopo la partita, la sconfitta in Coppa del Re contro Barcellona, la stampa gli ha fatto due domande. Uno, Messina, ti dimetti? Due, Messina, la società ti licenzia, pensa te, il grande, il super Ettore Messina, con quattro titoli europei, arriva a Madrid e deve sentire queste domande. Ettore è molto composto, ha detto, oh no, io sono in una botte di ferro con la società, nessuno mai ha azzardato questo, ma sappiamo come ne stanno le cose a Madrid, eccetera, quando si perde contro Barcellona in questa maniera qua. Poi dopo il risultato del calcio ieri sera saranno tutti sull'orlo dell'isterismo. Adesso vogliono vendere anche Kakà, i giornali spagnoli dicono che Kakà, insomma, grande bidone dell'anno è sul mercato, dicono i giornali spagnoli. Grazie coach. Ciao ragazzi. Ciao coach. Ciao Marco. Ciao. Palla spicchi. Ecco che torniamo, Marco Tripaldi, presidente di Biella, qui con noi, 800 24 00 24, per arrivare anche voi a Pallaspicchi con via telefono, messaggi 349-238-6666, c'è chi scrive a Vittoria, 3 minuti alla fine, Zibona ha smesso di giocare, vergognoso, in effetti partita dall'andamento strano, curioso che Zibona fosse sopra di 14 prima di mollare. Comunque c'è anche chi scrive, Filippo da Bitonto, ho visto interferire così tanto, si fa riferimento al discorso di Rappo Elkan, un esterno nello sport quando quel raccattapalle buttò fuori un gol di Savoldi. Francamente questo me lo sono perso, non me lo ricordo. Lo ricordo io che sono un po' più vecchio di te. Te lo ricordi? Sì, ad Ascoli. Grandissimo. Ma poi è stato anche ripreso più quando è diventato grande, non so se Fazio qualcuno l'ha invitato alla trasmissione. Raccattapalle da dietro, del calcio, il gol di Savoldi venne annullato, ha fatto tra storia. Carlo, dicevo, messaggi, Nico scrive, ce la facciamo anche quest'anno, è un tifoso di Biella, vi fa l'imbocca al lupo nonostante la sfortuna e gli infortuni. Abbiamo anche un altro modo per raggiungersi, che è il nostro gruppo di Palaspicchi su Facebook, dove peraltro sono state fatte anche delle domande per Marco Atripaldi. Una di queste, così entriamo subito in argomento, lo mettiamo a suo agio, è il discorso che viene fatto su Aradori. Sì. Il discorso di Aradori che da più parti insomma viene dato per partente con destinazione Siena. Allora il nostro amico su Facebook Nicola ci scrive di spiegarci un pochettino, se si può, questa situazione legata a questo giocatore. Ma Aradori è con noi dall'anno scorso, ha 4 anni di contratto. Come sempre quando si fanno dei contratti così lunghi con ragazzi giovani, a metà del contratto le due parti si prendono una possibilità, una finestra, no? per valutare qual è la situazione e cosa fare meglio. Quindi questa finestra c'è da ambo le parti per la fine della stagione, ma è una situazione concordata, no? Dove si deve trovare insieme un'intesa, se per proseguire su un contratto già scritto oppure se la società o il ragazzo intendono sfruttare delle occasioni che il mercato può offrire. Questa è la situazione e di questo si parlerà a fine stagione. Quindi in questo momento il ragazzo lo sa il suo agente, lo sappiamo tutti. Noi abbiamo un obiettivo da raggiungere, che è quello di portare a casa la salvezza e poi possibilmente anche qualcosa di meglio della salvezza, ma insomma il primo obiettivo è salvarci, visto come stanno andando le cose. E dopo, quando avremo raggiunto il nostro obiettivo, speriamo presto, poi parleremo anche del futuro di Aradori. Prima c'è il futuro di Biella. E il futuro americano di Biella, prende qualcuno al posto dell'infortunato Guillermo Diaz fuori un mese o no, giusto che stiamo parlando di temi di mercato? Vediamo, sai, quest'anno sarebbe la quarta guardia o quinta americana che arriva. Io francamente non ricordo di aver mai vissuto una stagione di questo genere, ma c'è Giuliani, il nostro GM, ci sta lavorando, la situazione è quella lì. Io ho sempre creduto di principio che prima di tutto bisogna ottenere il massimo da quelli che hai, e che normalmente quando c'è un infortunato i giocatori, gli altri danno di più. Questo è successo domenica con Roma, dove Chessa ha fatto una partita super, ma l'aveva già fatta per esempio a Cantù nell'andata, quando si infortunò Fred Jones e Soragna e andammo sostanzialmente con pochi giocatori. È ovvio però per questa settimana Chessa ha fatto bene, martedì si è fatto male in allenamento, poi Soragna si è fermato per 38 di febbre e ci siamo allenati senza esterni, cioè con soli 3 esterni in tutta la settimana. È chiaro che poi il mercato lo guardi lo stesso, perché quest'anno sta succedendo veramente di tutto e quindi bisogna essere preparati. Certo. L'idea è aspettare che torni Diaz per le ultime 5 partite e nel frattempo far giocare quelli che abbiamo e sperare che rendano il meglio, come abbiamo dimostrato di fare contro Roma. Insomma. Partita meravigliosa quella con Roma, che dimostra tante cose, ad esempio che nel basket, sarà retorica, no? Però c'è di più rispetto ai soldi, alle statistiche, alle parole, a tutte queste cose. Sotto il basket c'è di più, no? C'è anche la possibilità di giocare una partita di quel tipo contro Roma, e sarebbe bello vedere una partita di quel tipo a prescindere dal risultato, ma dico come atteggiamento domenica a Siena da parte vostra, una Siena. Io continuo a dirlo, secondo me c'è troppo timore reverenziale quando affronti Siena da parte di tutte le squadre del basket italiano, perché vai lì e dici vabbè, quei 2 punti sono persi, ma perché? Provaci. La mia impressione è sempre che non ci provi nessuno. Questo è abbastanza vero, è un mea culpa che dobbiamo fare tutti. Io ho visto ieri sera una partita che alla fine non contava niente, ma l'Efes comunque aveva un atteggiamento diverso da quello che una squadra italiana mediamente può avere quando affronta Siena. Ed è Siena, la vera verità è che è più forte e parte sempre da più 15. Il più 15 glielo regalano gli avversari mentalmente, perché tanto sai che se perdi, come dire, ti metti in una condizione migliore. Se perdi nessuno ti dice niente. Vincere è difficile, al primo break tutti a casa. Certo, la storia funziona così. Non è stato così domenica scorsa per Ferrara. Ferrara è stata in partita fino alla fine, sono stati molto bravi. Alla fine si poteva anche, come dire, discutere, sono stati vicino, insomma, la sono giocata anche noi all'andata ce la giocammo, se non ricordo male l'unica sconfitta di Siena dell'anno scorso fu proprio contro la Fortitudo all'indomani di un'eliminazione, quindi sì. Voglio dire, probabilmente Ferrara ha cercato di sfruttare il momento, certamente non facile dal punto di vista psicologico di Siena, che però stavolta è riuscita portata a casa meritatamente. Poi noi per esempio abbiamo giocato in Coppa Italia, abbiamo preso 30 e dopo 10 minuti, come dire, si poteva andare tutti a casa, proprio perché dopo un po' non ci credi. Loro sono bravi a non farti ci credere, cioè, sono bravi a toglierti le speranze. Probabilmente squadre più attrezzate potrebbero anche provarci di più, e credo che in qualche modo leggo le dichiarazioni, Milano, stessa Roma, Bologna, pensano ai playoff, a poter essere degli avversari. Io credo che ci sarà battaglia, Ma io mi auguro comunque, io penso sia comunque una questione di atteggiamento, perché se Milano, Roma, Bologna avessero contro Siena l'atteggiamento che avete avuto voi domenica contro Roma, allora parliamone, altrimenti diventa il discorso che hai fatto tu adesso, al primo break tutti a casa. Marco, poi torniamo su questi temi magari anche con gli ascoltatori. 800 24 00 24, il numero verde, ma volevo affrontare con te un altro argomento. Lo sapete bene, è inutile che lo dica, Marco Trepaldi è uno dei migliori e più grandi talent scout italiani, cioè di architetti italiani di squadre. La storia recente lo dimostra, tanti giocatori di Biella, i più recenti, Jerebko nell'NBA, che sta spaccando nell'NBA, gioca a livelli altissimi a Detroit, sempre in quintetto base, Gist l'anno scorso, ma la storia è lunga, insomma, dei giocatori scoperti da Marco Trepaldi. Oggi sulla Gazzetta dello Sport Luca Chiabotti scrive: l'Italia gli ha scartati in Europa, sono stelle, e sono Alan Anderson, Jamon Gordon, Quintal Woods, lo stesso David Logan, passato da noi un po' come una meteora. Però in questa Eurolega protagonisti tanti giocatori che hanno attraversato senza grande fortuna il nostro campionato. Secondo te perché? Secondo te è vero tutto questo? È vero e non è vero, nel senso che intanto i giocatori, dipende che condizioni trovano e quando arrivano in Europa. Jamon Gordon è arrivato da rookie nella Fortitudo nel peggior anno della storia della Fortitudo, un anno difficile e disgraziato, quindi noi siamo stati molto vicini a firmarlo la scorsa estate, anzi avevamo già anche un accordo, ma non sono certo che se lui fosse venuto a Biella anziché andare al Cibona avrebbe fatto una grande stagione nel campionato italiano. Non è nemmeno vero che i giocatori vengono sempre dimenticati o scartati, poi dipende sempre dalle circostanze. La storia di un giocatore dipende molto da dove arriva, in che società arriva, quali sono le pressioni, che cosa gli si chiede. Il campionato italiano è un campionato molto molto difficile, questo è sicuro. L'ambiente e le pressioni sono particolari. Al Cibona Jamon Gordon ha avuto anche la fortuna di poter iniziare male e che nessuno gli abbia detto niente, essere messo fuori squadra, magari prendere i soldi o non prenderli, perché poi anche loro hanno avuto problemi economici. Quindi da questo punto di vista, vedi, il capire i giocatori, per esempio tu prima hai citato Jerebko, che in realtà è stato un giocatore scoperto da Daniele Baiesi, che è il nostro ex general manager, bisogna che ognuno si prenda i suoi meriti, però probabilmente in un'altra società non sarebbe stato atteso un anno dove ha messo su 10 kg di muscoli, dove gli è stato consentito di sbagliare, dove gli è stato poi l'anno dopo dato il quintetto, dove ha potuto giocare. Dipende sempre da dove finisci. Io, come dire, spezziamo una lancia per i dirigenti italiani, non siamo così scarsi. Tutt'altro. In questo momento i soldi e le risorse sono poche e la possibilità di operare sul mercato in concorrenza è quella che è. Adesso con i problemi che la Grecia, dico problemi economici della Grecia, della Spagna eccetera, è possibile già con il mercato russo stanno un po' cambiando le cose, è possibile che si riequilibri anche qualcosa, perché a fronte di certi giocatori sinceramente anche le nostre società più grandi fanno fatica a competere. Comunque se Forza e Jerebko avete un gran nome presso l'NBA, siete una delle... Uno svizzero e uno svedese che giocano in NBA, sai, non è che hai preso proprio anche due da due paesi dove non è che non è che giocano tutti a pallacanestro, quindi e un nome ce lo siamo fatto negli anni anche per il lavoro fatto magari su americani giovani che poi io penso a Mike Batiste, che quando venne a Biella fece bene, poi l'anno dopo tornò a giocare nell'NBA un anno prima di diventare una colonna del Panathinaikos. La storia è una storia di anni, ma ripeto, non è questione che tu sei più bravo a trovare giocatore, magari che è più facile. Io sono stato anche un anno sfortunato in una società grande, è molto più difficile perché la pazienza è minore, i risultati devono arrivare prima, devi dare qualcosa subito. A Biella c'è la fortuna che tu per qualche mese puoi lavorare sui ragazzi, puoi farli crescere senza avere una pressione addosso esagerata. Ci fermiamo un attimo per la borsa, poi c'è Vincenzo da Ferrara che è il primo ascoltatore di oggi, ripeto il numero 800 24 00 24, e poi chiederò anche a Marco Trippaldi chi è il prossimo Jarebko. Preparati, Palla spicchi. Sempre qui con il dirigente sportivo piemontese dell'anno, titolo di cui è stato insignito qualche giorno fa Marco Trippaldi, presidente di Biella, altro che quelli della Juventus. Parliamo di quelli del Torino. No, ma non scherziamo. Questo lì, beh, il premio è stato premio. Un piacere, ma l'ha dato. Ma so, e allora, che va alla società, non è che va a me personalmente. Non fare come Chessa, che domenica. Una cosa che ho detto domenica, poi Flavio Tranquillo testimone dopo arriva, ho detto io voglio sentire se Pozzecco avesse fatto la partita che ha fatto Chessa. Ma piuttosto la dedicava alla zia di Udine o alla russa di turno, alla modella russa di turno, però si prendeva tutti i meriti, che sono a merito della squadra, mi hanno passato bene la palla. No, è stato bravo lui. È stato bravo lui, è stata brava la squadra. Se dopo 5 sconfitte, sì, la palla il pesa problema male. Vero è che ti devi togliere di dosso la depressione, devi girare proprio un macigno invisibile, e sono stati bravi tutti a farlo. Lui è stato bravo a cogliere l'attimo, ma lui è un ragazzo che ha carattere, lo ha dimostrato credo quella sera lì, insomma all'ultimo tiro non ha manco toccato la retina, e pesava quella palla lì. Vincenzo da Ferrara, buongiorno. Buongiorno, dica. Niente, volevo un vostro commento sul campionato che sta facendo la Fortitudo quest'anno, e volevo chiedervi se la torneremo a vedere grande come gli anni scorsi. Io spero tantissimo. Qualcuno vorrebbe che Marco Trippaldi la prendesse la Fortitudo, sempre sul gruppo di Facebook di Pallaspicchi. Una delle cose che è stata chiesta a Marco Trippaldi è proprio quella. Dannato gruppo di Facebook. No, io al di là di tutti gli scherzi a Fortitudo, insomma, mi manca un sacco. Ti dico la verità, a me manca un sacco, magari a te un po' meno, Marco. No, vabbè, giocare lì è una storia. Io mi ricordo sempre che Biella ha una giovane vita, quindi il fascino delle partite al Paladozza, col pubblico della Fortitudo, con la fossa che non molla di incitare per 40 minuti, è una cosa bella della pallacanestro italiana, e della quale la pallacanestro italiana secondo me non può fare a meno, quindi speriamo che quest'anno mi pare che stiamo facendo, no? Sì, stanno facendo il loro dovere, pur fra tante difficoltà. Ci sono ancora problemi societari sul tappeto. Il vero nodo non è il campo, non è il campo dove la Fortitudo sta facendo tutto quello che deve, cioè vincere il campionato. Ci sta provando e ci sta riuscendo al momento, però il problema vero è sul fronte societario. Mi sembra che da lì le notizie non siano splendide ancora. C'è qualche altra domanda del tuo fantomatico gruppo su Facebook per la Trippaldi? Nostro fantomatico. Ma io poi a Fortitudo non saprei, ma credo che a Bologna ci sia della gente pronta a rilevarla se sarà necessario, o va avanti l'attuale proprietà. Adesso io non ho l'abitudine di occuparmi dei fatti degli altri. Giustamente. Societari, ci mancherebbe altro. È un patrimonio della pallacanestro italiana, quindi bisogna che torni in Serie A. Un'altra curiosità è questa: come si sta, ti chiedono, in un campionato dove gioca Napoli? Da una parte sono quattro punti incamerati, dall'altra certamente è una follia, quella cosa è una follia. Bisogna dire le cose come stanno. Io ho avuto anche purtroppo il dispiacere di giocare la prima partita contro i giovani di Napoli, avevano anche ancora qualche mezzo senior in quella partita lì, e dopo 10 minuti io ricordo ho preso il telefono in panchina, ho chiamato Valentino Renzi, gli ho detto questa cosa non può durare perché è una vergogna per tutti. E purtroppo invece sta durando non è una cosa accettabile, sinceramente. Io leggevo anche i messaggi per la Trippaldi, come sempre un saluto da Treviso, dove la sua esperienza professionale non è stata positiva ma la qualità della persona ha lasciato un ottimo ricordo, questo tra i tanti messaggi. Grande Biella, molto sfortunati ma grande qualità, bravo il presidente, bravo il mitico Ale Giuliani, scrive però, Roberto però, da Verona. Avevi chiesto a Marco Trippaldi chi è il nuovo Jarebko? Marco, quest'anno che cos'hai trovato in prospettiva, perché come ci spiegavi prima, insomma, quest'anno noi tra l'altro portato al torneo junior che abbiamo giocato a Londra, al torneo dell'Eurolega, abbiamo portato un altro svedese. Adesso noi appunto, come dicevi prima, sul mercato svedese Biella si è fatta un nome, e per esempio c'è questo ragazzo Magariti, molto molto interessante. molto interessante, un 4 mani d'oro, figlio di giocatore americano, mamma anche atleta, e questo ragazzo svedese però a 16 anni, vediamo. Tanto ha giocato con noi il torneo e ha fatto benino. Devo dire che quel torneo lì, per esempio, un ragazzo che noi abbiamo preso da Monza, non dalla che si chiama De Vico, nella partita col Kim che ha fatto 36, quindi insomma. Qualche altro ragazzo interessante nel nostro settore giovanile, abbiamo 4-5 nazionali bravi. Senti, le maggiori soddisfazioni di quest'anno dal punto di vista dei giocatori, è troppo facile dire Aradori, che a detta di tutti è il miglior italiano del nostro campionato e segue il solco di Bielno, arrivano lì e fioriscono. Però al di là di Aradori, beh, Aradori che essa dietro sta, mi pare che stia facendo bene, l'ultimo Garri molto bene, parliamo di italiani, poi insomma, americani quest'anno non siamo stati molto fortunati, anche se per esempio la dedizione di un ragazzo come Pasco è unica, poi lui c'ha sto problema di tiri liberi, ma per il resto è veramente forte. Posso spendere una parola per un ragazzo che non conosce nessuno, che si chiama Andrea Maggiotto, che noi abbiamo preso nel momento in cui eravamo in 6 ad allenarci, ed è arrivato da Jesolo San Donà ed è venuto a giocare da noi e ha avuto impatto, mi pare, almeno in una partita l'ha avuto. Ha fatto il suo dovere, ma fa il suo dovere tutti i giorni. E se a me poi, come piace la pallacanestro, piace andare agli allenamenti, piace vedere giocare, vedere i miglioramenti. Questo ragazzo è arrivato a novembre, insomma, arrivava da là dilettanti, faceva quello che poteva. Oggi è un altro giocatore, è un ragazzo interessantissimo, secondo me. Grandissimo miglioramento. Dell'88 ha realizzato 9 punti in 23 minuti in quella fantomatica partita di cui stavamo parlando, però ha avuto anche altro spazio, insomma. Sì, ma poi durante la settimana il suo lavoro è fondamentale, tiene alto il livello dell'allenamento e oggi secondo me è un ragazzo che potrebbe anche meritarsi dello spazio per l'anno successivo. È atletico, tira bene da 3, grande costanza, non gioca mai, non si lamenta, abbassa la testa. Se tutti i giocatori italiani avessero questo tipo di mentalità, secondo me ne vedremo molti di più sui campi. 800240024 se volete intervenire. Volevo invece, Marco, una tua lettura su questo campionato da due punti di vista. Il primo, Siena con la giusta mentalità, i discorsi che facevamo prima, però una Siena a fine ciclo dichiaratamente, perché Minucci ha dichiarato il giorno dopo l'eliminazione dell'Eurolega, questa squadra è finita, si ripartirà da un'altra squadra, da un altro progetto, eccetera. Quindi è chiaro che è in un momento difficile, potrebbe essere attaccabile nei playoff da Roma o da Milano o dalla Virtus Bologna, insomma da qualcuno, secondo o da me Caserta, no. Poi sai, sì. Secondo te è attaccabile, cioè questo tallone d'Achille, secondo me vinceranno loro alla fine perché sono più forti, però probabilmente il concetto psicologico di cui parlavamo prima, no? L'impatto che uno può avere, se ci sarà qualcuno che arriverà nella giusta condizione fisica e psicologica e con la giusta quantità di fiducia per pensare di poter dare l'attacco al Moloch, è possibile che loro abbiano qualche difficoltà in più del passato, anche se ripeto, io credo che Siena sia ancora di un gradino superiore a tutti gli altri proprio per questa grande compattezza e questa grande fiducia nei propri mezzi. Caserta sicuramente è la squadra che gioca il pallacanestro più divertente e anche ha dei giocatori di talento assoluto che possono risolvere le partite, guardate la crescita di Jumaine Jones nelle ultime, insomma. Sì. E quindi poi tutte le altre che sono lì nelle prime 6-7 posizioni, la Montegranaro dell'ultimo mese, degli ultimi 2 mesi, che peraltro ti devo dire, noi giocammo contro Montegranaro in precampionato, loro ci diano 25 ma mandandoci a casa con grande facilità, ed erano già organizzatissimi come tutte le squadre di Frates, quindi una squadra molto solida, molto ben strutturata e che poi, ripeto, strada facendo ha trovato la fiducia di Cavaliero, che è uno che gli ha cambiato abbastanza la vita, mi sembra. Ecco, loro sono una squadra, bisogna vedere se tengono sulla distanza. A questo ritmo qua, hanno il ritmo di Siena, vincono sempre anche loro, quindi stiamo a vedere. E sarà molto interessante la lotta delle sfidanti, sai, come nell'America Cup, poi alla fine andrà a giocare contro i campioni in carica. Vediamo, secondo me alla fine sarà un buon campionato, forse il livello tecnico non è quello di qualche anno fa. Poi gli hai dato Brunner a Montegranaro. Non gliel'ho dato, è andato lui, mini pivot, ma vale tanto oro quanto pesa, giocatore di qualità. A me piace da morire Brunner. Beh sì, giocatore di utilità pazzesca e ragazzo super, quindi alla fine qualcosa di buono fa sempre. In coda invece, Marco, a parte, lasciamo perdere la vergogna di cui parlavamo prima, Ferrara 10 punti, Vanoli, Cremone, Scavolini, Pesaro ne hanno 14, fa un po' specie vedere Pesaro in quella posizione in virtù dell'inizio praticamente tragico della stagione, però insomma lotta dura anche per molto, ma anche noi siamo lì a 18, poi sono quella 16, siamo tanti che siamo interessati a quella storia lì, e soprattutto guardando il calendario, se rifacciamo il ragionamento a fine marzo sarà ancora più complessa, ancora più complicata la situazione lì sotto, per tutta una serie di partite, di incroci che ci sono, nelle prossime 3-4 partite cambieranno ulteriormente e accorceranno ulteriormente la classifica, quindi credo che sia una storia ancora tutta da scrivere, anche quella lì, e sarà come sempre appassionante fino alla fine. Palla spicchi. Torniamo con un ascoltatore che è Enrico da Como. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Dica. Niente, io sono di Como, sono tifoso dell'Olimpia Milano. E domenica c'è il derby con un Cantù molto sentito, sì, dalle mie parti, e volevo chiedere a voi cosa ne pensate intanto dell'Olimpia Milano, che secondo me l'anno scorso abbiamo fatto una finale, visto che c'è anche il presidente di Biella che abbiamo battuto in semifinale. Una buona squadra completamente smantellata, e adesso siamo alle solite, continuiamo a smantellare la squadra, mi sembra l'Inter dei, sì, Moratti dei primi tempi, un po' sì, e quindi secondo me sarebbe il caso di avere un progetto, perché per fortuna che c'è Armani che mette i soldi, però quando si stuferà. E quindi volevo sapere cosa pensavate. Io mi allineo, Enrico, mi allineo con lei, poi sentiamo cosa pensa Marco Tripaldi. Ma io guardo bene da giudicare, dico che la forza di Siena negli ultimi 4 anni è stata quella di cambiare molto poco, quindi è chiaro che poi il mercato è un po' più complesso, anche le scelte di Milano magari sono delle scelte legate dalla contingenza, da quello che uno può fare, dai contratti che già c'erano, da quelli che si sono trovati, dalla disponibilità di giocatori a rimanere. Non credo che loro non volessero tenere Hawkins, credo che sia Hawkins che sia voluto andare a provare a fare di più in Eurolega, no, a vincere lo scudetto a Siena, quindi poi non sempre è così facile giudicare, capire dal di fuori certe scelte. Sicuramente la forza di Siena rispetto a tutti gli altri è stata quella di aver azzeccato all'inizio un buon gruppo, avergli dato fiducia e poi aver fatto il minimo di cambiamenti possibile. Sì. Flavio Tranquillo, buongiorno. Buongiorno. Ciao Flavio. Ciao Flavio. Marco Tripaldi qui con noi, Flavio. Buongiorno Marco. Ciao Flavio. Senti, io ti voglio chiedere due impressioni. La prima cosa che hai pensato quando hai visto il colpo di mano di Lapoli Pen Elkan, la prima cosa che hai pensato, e poi la seconda cosa che hai pensato davanti ai risultati di ieri di Eurolega, perché la prima sarà stata: non è possibile che il Real regali una Final Four. Ma partiamo da Lapo Elkan. Credo che la prima cosa che ho pensato è che quando ho visto che lì per lì è stato lui praticamente a riprendere un po' Calderon, perché ha detto: come, non sei neanche riconoscente, ti ho risparmiato tutta la strada che avresti fatto per inseguire la palla. Lui pensava che fosse come quando giocavamo da bambini, la palla andava lontano e c'era il nonno dei giardinetti che te la teneva lì, così non dovevi andare a riprenderla. Credo che quello sguardo, che secondo me diceva quello, valga il prezzo del biglietto, e poi anche un bel colpo di fortuna che si è trovato alle prese col giocatore forse più educato non solo dell'NBA, sì, ma dell'universo mondo, perché con un altro avrebbe rischiato un po' di più. Fosse stato Ron Artest sarebbe finita in maniera, credo, leggermente diversa. Ma bastava molto meno di Artest. Okay. Senti, invece la seconda cosa che hai pensato davanti ai risultati di ieri di Eurolega con il Maccabi che va a vincere a Madrid e il Real Madrid di Ettore Messina che regala praticamente di fatto una Final Four di Eurolega, perché è chiusa la serie con il Barcellona, io credo. Ho visto la partita, credo che sia meno sorprendente di quello che potrebbe sembrare anche alla luce dello svolgimento stesso della partita. Io non credo onestamente che Real Madrid sia una squadra da Final Four, e credo che il primo che lo sa è Ettore Messina. Poi è vero che se ieri avesse vinto e ha avuto naturalmente più di un'occasione, sia quando era confortevolmente in vantaggio che quando ha avuto la possibilità almeno di giocarsi ai supplementari con il vento nelle mele la partita, è ovvio che se avesse vinto avrebbe avuto una serie tutto sommato agevole, non già vinta, tutta tutt'altro che già vinta, ma agevole contro il Partizan, quella contro il Barcellona non è agevole, però l'Eurolega va interpretata secondo me non solo su vado o non vado alla Final Four, vado o non vado ai playoff, ma anche sul fatto che è una competizione così, che ti gira quasi sempre a quel livello naturalmente su 2, 3, 4 possessi al massimo distribuiti in 1-2 partite. Quindi il problema non è tanto andare o non andare a Final Four, ma secondo me essere una squadra da Final Four, questo Real non l'è ancora. Tra l'altro Flavio, mi pare che avversario peggiore anche a livello di campanile non potesse esserci, visto che in Spagna ogni scontro tra Barcellona e Real anche a livello calcistico equivale davvero a un evento di una portata incredibile, e abbiamo visto che gli scarti che il Real ha rimediato col Barcellona non sono di poco conto, così come le reazioni della gente di Madrid. Sì, tutto corretto, tutto vero, e il pronostico è passa il Barcellona, e anche il mio, secondo me a Barcellona, proprio per questo paradossalmente non dormono così tranquilli finché non l'hanno davvero eliminato il Real Madrid. Non vorrei necessariamente giocare, pur sapendo di essere più forte, e non è un'opinione ma sono dei fatti per i precedenti in campionato e in Coppa del Re, non vorrei giocare contro una squadra di Ettore Messina già data per spacciata da tutto il mondo, col vantaggio del fattore campo e con l'obbligo di vincere per mille motivi. Non ci vorrei giocare. Secondo me sarà una serie più divertente di quello che pensiamo adesso. Un ipotetico Biella Torino nel basket che verrà. Sì, io sono abbastanza d'accordo con Flavio, vado anche oltre. Nel secondo me per il Barcellona, che è forse la squadra considerata favorita per il successo finale, è il peggior avversario che potesse capitare il Real Madrid. Perché comunque quella è una partita che sfugge alla fine, non è che sfugge ogni pronostico, ma ha dei motivi diversi rispetto a quelli di un qualunque altro scontro a livello europeo. Sì, su una serie lunga vince la squadra più forte, dopodiché vediamo come saranno gli equilibri, come vanno le cose, come va la prima partita, che cosa succede. Io sono molto meno, come dire, sicuro che lì sia già scontata la storia. Senti, però l'anno prossimo, Marco, abbiamo le Final Four nel cortile di casa. Se non ci arriva neanche un'italiana, vabbè, facciamo fagotto e andiamo via. Beh, in questo momento dobbiamo sperare che Siena il prossimo anno faccia una squadra competitiva. A me arrivano proprio a 70 km da casa. Appunto. Io sono ben felice, diamo ospitalità gratuita alla squadra italiana per 10 giorni prima per prepararli, li mettiamo nella condizione migliore per poter andare a vincere la Coppa. Ci mancherebbe altro. Tra l'altro, per Biella, per il Piemonte, è una grandissima promozione questa cosa, per la pallacanestro Biella, per la pallacanestro piemontese è una grandissima occasione di prestigio, oltre che per la pallacanestro italiana. Speriamo assolutamente di essere rappresentati. Flavio, tu un nome lo faresti per di una squadra italiana che il prossimo anno fa la Final Four di Eurolega? A parte Biella non me ne viene. Sentiamo. Sì, noi lo possiamo fare d'ufficio, a tavolino. Sentiamo un altro ascoltatore, Alberto da Udine, buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche a Marco e a Flavio. Io volevo sapere una cosa, perché un esempio come può essere stato quello di Lapo nell'NBA debba essere, questo è l'esempio che ci può essere uno spot per il basket. Ci sono, il basket è lo sport più bello del mondo, dal mio modo di vedere, magari anche da tanti altri personaggi. Perché abbiamo bisogno di un Lapo per andare sui giornali? Questo non lo capisco. Sì, può essere letta anche andiamo un po' di più sui giornali perché Lapo ha fatto quella fesseria lì. Può essere letta anche così o no, Flavio? Deve essere letta così. Se uno va su uno dei siti, non voglio fare pubblicità, di uno dei due più importanti quotidiani italiani, c'è la classifica dei video più cliccati, Lapo ha 100.000 click di vantaggio sul secondo, terzo e quarto, che sono Berlusconi, La Russa e dintorni, tanto per darvi un'idea della portata delle due cose. Quindi sul fatto che abbia leggermente fatto parlare di basket e di NBA, seppure indirettamente, questo è chiaro. Secondo me la valenza però è un'altra, ovvero sia, se noi basket dobbiamo aspettare Lapo, poi noi andiamo sui giornali solamente come sfondo di quello che ha fatto Lapo. Lapo l'avrebbe fatto probabilmente alla pallanuoto, al curling o alla scopa d'assi nella stessa identica maniera, anche perché da quello che ha fatto non sembra che fosse tanto addentro alla vicenda agonistica. Quindi è vero che ci sono 300.000 click o 3 milioni di miliardi di contatti, ma sono 3 milioni di miliardi di Lapo, non del basket. Quindi al di là della lettura non mi sembra la strada. Non è che possiamo chiedere a Lapo adesso di andare domenica a Biella e poi la volta dopo a Milano o a Siena e prendere palloni e intercettarli e buttarli. Anche perché in campo. Se mi fa perdere una partita in quel modo lì, io sono molto meno sportivo di Calderone. Non c'è questione. Tanto io lo voglio, io preparati Flavio, perché lo voglio far venire qui a Pallaspicchi un giorno e faccio venire anche Pozzecco con la polizia qua sotto in via Monterosa. Tu preparati perché succede, stiamo già lavorando sul progetto. Flavio, sono pronto. Sei pronto? Benissimo, ci sentiamo domenica intanto. Domenica. Buon proseguimento. Ciao. 20:30 domenica, qui dalle 20:30 alle 21 come sempre Pallaspicchi, racconteremo cosa ha fatto Biella a Siena. Promettimi che ci provate. No, ma noi dopo la vittoria con Roma, che sicuramente, ripeto, ha caricato l'ambiente, perché è un ambiente depresso dopo 5 sconfitte, avremmo voluto allenarci meglio di come abbiamo fatto questa settimana. Purtroppo non siamo stati fortunati, ma detto questo ci proviamo. Guarda, Luca Becchi è veramente da questo punto di vista sorprendente. Lui l'ha preparata da martedì la partita con grandissima determinazione, con i giocatori che ha avuto a disposizione, certo. Sappiamo benissimo, noi ne abbiamo appena presi 30 da Siena, quindi sì, sappiamo benissimo con chi andiamo a giocare e che partita è. Però siamo anche, non abbiamo pressione, all'andata a Biella un pochettino l'avevamo messo in difficoltà, proveremo a mettere in difficoltà. Poi, l'importante è che a quel primo break non si vada a casa. Al primo break ma neanche al secondo, neanche a me dispiacerebbe. Insomma, speriamo di stare in partita il più possibile e di far vedere che siamo in grado di giocare una buona pallacanestro. Poi il risultato finale, insomma. Qui i risultati con Siena sono quelli lì, sono da un paio d'anni. Sono scritti da qualche parte. Esatto. Senti, io vengo a trovarti a Biella, però tu torni a trovarci qui a Pallaspicchi. Quando volete, volentieri. Con Lapo e Pozzetto. Ecco. Dove si parla di pallacanestro ci siamo. È bello esserci. Grazie, okay. Marco, grazie a voi. Grazie a Flavio Suardi. Alla prossima. Grazie a Franco Piantaneda in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Ci sentiamo domani con lo sport dalle 5 alle 6.